Perek Bet, Mishnah Chet, secondo capitolo, ottava Mishnah del trattato di Sukkah. L'ultima riga qui sulla nostra pagina 3. E la Mishnah parla di chi è obbligato e chi è esente della mitzvah della Sukkah. Nashim, le donne, Vavadim, gli schiavi. Si parla di schiavi non ebrei, cioè cosiddetti avadim knanim, schiavi cananei. Significa che hanno, diventando schiavi, hanno assunto un certo livello di obbligo nei confronti delle mitzvot, ma è limitato. Uktanim, e i minorenni, quindi che non rientrano ancora nell'obbligo delle mitzvot. Tutte queste tre categorie, ognuna per una motivazione diversa, come vedremo, pturim min sukkah, sono esenti dalla mitzvah della sukkah. Scusa, non ho capito che vuol dire pturim min sukkah. Di la costruzione o di stare nella sukkah? No, no, no. La costruzione non è una mitzvah. Allora, la mitzvah è stare sotto la sukkah. Ah, stare sotto la, sì, quella. La costruzione è un modo per arrivare alla mitzvah. Ok. Ma non è una mitzvah. Se tu hai, se io costruisco una sukkah e tu sei ospite, non devi costruirlo anche te. Per dire. Ok, quando noi diciamo esente o obbligato, stiamo parlando dell'obbligo di stare nella sukkah. E qui abbiamo detto che innanzitutto le donne non sono obbligate a stare nella sukkah. In realtà questa non dovrebbe essere una grande sorpresa, perché sappiamo che la regola generale è che mitzvot shehazeman geraman, mitzvot che hanno, che sono limitate da un tempo specifico, sono, le donne sono esentate da queste mitzvot. Allora anche la sukkah è una mitzvah she'azman gerama, che è causata da un momento specifico che arriva alla data del 15 al 20 al 21 del mese di Tishri. Ok? Allora perché dobbiamo invece sì dire che nashim pturot, che le donne sono esenti? E fino al punto che la Gemara cita fonti e spiega che dobbiamo capire dai versetti che parlano della sukkah che non tutti sono obbligati, perché c'è scritto nella Torah kol ha'ezrach beYisrael yeshev basukot, e usa un termine maschile, ogni cittadino di Israele deve risiedere nella sukkah, proprio per alludere all'idea che la parte femminile è esente dalla mitzvah della sukkah. Perché serve questa cosa speciale se sappiamo che ogni mitzvah che è legata a un tempo specifico le donne sono esenti? Effettivamente la risposta è molto semplice. Se vi ricordate, abbiamo detto che c'è un paragone tra la prima sera di Sukkot e la prima sera di Pesach. Abbiamo detto così come a Pesach abbiamo un obbligo assoluto di mangiare la matzah la prima sera, le altre sere non c'è un obbligo assoluto. Se hai fame, mangi la matzà, se non hai fame, non la mangi. Ma non, la prima sera, o nel nostro caso le due sere dei Sedarim, abbiamo l'obbligo di mangiare la matzà, e nella stessa maniera la prima sera di Sukkot abbiamo l'obbligo di mangiare sotto la sukkah anche se non avessimo fame. L'altro giorno, l'altra sera è diverso. Ma la prima sera c'è un paragone tra Hamisha Asar, il 15 del mese di Tishri, e Hamisha Asar, il 15 del primo mese, il mese di Nisan. Nella matzah la donna è obbligata come l'uomo. Allora se esiste questo paragone, forse esiste, si estende anche all'obbligo della donna. E così come la donna è obbligata a mangiare la matzah esattamente come l'uomo la prima sera di Pesach, forse è obbligata a stare sotto la sukkah esattamente come l'uomo. Ecco perché la Mishnah viene a dirci no, non è così. Ora la domanda è perché non è così? Perché il motivo per cui, qual è la motivazione per la quale la donna è obbligata a mangiare la matzah? È una motivazione che qui non si applica. E qual è la motivazione? Abbiamo, se vi ricordate, approfondito anche questo, che c'è una Gzerah Shavah, una tradizione che lega due mitzvot di Pesach. E quali sono? Quella di non mangiare il chametz e quella di mangiare la matzah. Tutti coloro che sono, la conclusione è che tutti coloro che hanno il divieto di mangiare il chametz hanno anche l'obbligo di mangiare la matzah. visto che tutti gli ebrei sono, rientrano nel divieto di mangiare chametz, perché per, quello è, quella è una mitzvah negativa, e nelle mitzvot negative non c'è differenza tra uomini e donne, quindi è chiaro che la donna è obbligata esattamente nella stessa maniera come gli uomini, e non essendo, essendo obbligata a non mangiare chametz, è obbligata anche a mangiare la matzah, come la Gemara spiega il legame tra le due cose. A Sukkot non si applica questa cosa, e quindi escludiamo, dobbiamo venire e dire, non credere che la donna è obbligata come a Pesach, non è obbligata. Quindi questa è la prima cosa che la Mishnah dice. E per ciò che riguarda gli avadim, gli schiavi, come si definisce il livello di obbligo che lo schiavo non ebreo ha in base all'obbligo che la donna ha. Quindi, essendo la donna esente dalla sukkah, anche lo schiavo è esente dalla sukkah. È così che si definisce il livello di obbligo dello, dello schiavo. E poi abbiamo detto ktanim, i minorenni. Perché i minorenni sono esenti? Perché sono esenti da tutte le mitzvot. Perché non hanno l'obbligo di fare le mitzvot finché non rientrano nell'età. Ah, perché lo dobbiamo dire qui se sono esenti da tutte le mitzvot? Cosa c'è di nuovo nella sukkah? Se è sempre valido. Allora ci sono due aspetti. Prima cosa, esiste una mitzvah di chinuch. Chinuch significa letteralmente educazione, cioè instradare nelle mitzvot. Che non è l'obbligo del minorenne. Il minorenne non ha nessun obbligo finché non fa il bar mitzvah. È il genitore che ha l'obbligo di instradare il minorenne nelle mitzvot. E questo è un obbligo che sta, scatta ad una certa età, adesso vedremo. Prima di quello non ha l'obbligo. Perché allora ce lo deve dire? Perché nella della sukkah c'è scritto che bisogna risiedere nelle sukkot. Così come si risiede nelle case. Allora forse tutta la famiglia. Uomini, donne, bambini. Ecco perché la, la Mishnah ci dice, nonostante nella sukkah la mitzvah è una di abitarci, di risiedere nelle sukkot, nonostante ciò si applica quello che si applica sempre, che chi non è, non rientra nell'obbligo è comunque esente, come in questo caso le donne e i bambini. Ora però la Mishnah affronta il discorso del chinuch. Quando è che inizia invece, come dicevo, il concetto di instradare i bambini nelle mitzvot, in questo caso specifico della sukkah? Qua, da che età o da che momento nella vita devo dire al bambino vieni con me nella sukkah e non rimanere dentro la casa? Allora la Mishnah dice, non è una cosa che è definita da un'età, ma da un raggiungere una certa maturità. Vediamo come si definisce, è molto interessante. Katan, sheino tzarich le imo, un bambino che non ha più bisogno della madre, chayav basuka, è obbligato alla mitzvah della sukkah. Di nuovo, l'obbligo non è del bambino, è il padre è obbligato a instradarlo nella mitzvah della sukkah. Cosa significa non ha più bisogno della madre? Non c'è nessuno che non ha più bisogno della madre. Nessuno dice, ok, non ho più bisogno di te, vado in Australia. No. Non è l'allattamento, i maestri spiegano, allattamento normalmente è considerato fino a 2 anni l'età di allattamento, anche se non allatta di fatto, però 2 anni ancora è piccolo per questo. Quello che normalmente si spiegano i commentatori della Mishnah è che se si sveglia la notte e non si calma finché non viene la madre, allora significa ha bisogno ancora della madre. Se si sveglia la notte e dice mamma, mamma, poi si riaddormenta, ok, questo può essere anche a 30 anni. Però, però se ha bisogno, cioè non riesce a riaddormentarsi o comunque a prendere la calma senza l'intervento della madre, allora si chiama ancora Katan Hatzarich Leimo, un minorenne che ha bisogno della madre ed è esente dalla mitzvah della sukkah, come la madre è esente. Ora la Mishnah dice, è accaduta una volta che uno dei grandi maestri, capi delle grandi case di studio, era Shammai Hazaken, l'anziano maestro Shammai, capo della casa Bet Shammai. C'era una simcha, ma a sé è accaduto Vialda Kalatosh el Shammai Hazaken, la nuora di Shammai Hazaken, partorì. E quindi c'era un bambino piccolo, un neonato. Cosa fece Shammai Hazaken? Fichete tamaseva, tolse il tetto sopra il lettino del bambino e ci mise dello schach per far sì che sia una sukkah. Vesikech al gabei hamita, sopra il letto mise lo schach, bishvila katan, per il bambino piccolo. Cos'è che la Mishnah ci vuole insegnare con questo? Che secondo Bet Shammai, o secondo Shammai Azaken e Bet Shammai, ogni bambino piccolo deve stare nella sukkah. E cioè che lui era rigoroso e diceva che la mitzvah del chinuch, dell'instradare nella mitzvah della sukkah, è valida già anche per un bambino che deve sì avere la madre, che ha sì bisogno della madre. Che chiaramente la halakha non segue questa opinione. Ma secondo Bet Shammai, o Shammai Azaken appunto, non solo nella mitzvah della sukkah, ma in tutte le mitzvot dove c'è il chinuch, bisogna fare quello che è possibile fare dal primo momento possibile. Cosa che non è una opinione condivisa, è soggettiva. Sempre il chinuch è soggettivo, perché per uno può essere pronto per una certa mitzvah a 5 anni, un altro a 7 anni. Quindi il chinuch è sempre un po' soggettivo. Qui però Bet Shammai prende una visione molto estrema, nel senso che è molto rigorosa, e dice che dal primo momento che è possibile fare qualcosa, il bambino non deve fare niente per stare nella sukkah, deve solo starci. Quindi io gli metto sopra lo schach e diventa che sta nella sukkah. Certo che c'ha ragione, non è torto o non torto, però l'alaha non lo segue. Sempre quando abbiamo due opinioni nella Mishnah hanno tutti ragione. Nessuno ha detto un errore. A tutto ha una fonte nel mondo superiore. La domanda è come è l'alaha applicata. Quindi per l'alaha è meglio aspettare... Per l'alaha non sei obbligato a fare così. Mishnah Tet, ultima Mishnah di questo capitolo. E qui, come dicevo, si definisce fino a che punto siamo obbligati a stare nella sukkah quando abbiamo un problema. Vediamo. Kol shivata yamim, durante tutti i sette giorni della festa di Sukkot, Adam osse sukkato keva ubeito arai. La persona dovrebbe far sì che la sukkah è il luogo fisso della propria dimora, keva, fisso, e la casa, ubeito arai, la casa è la dimora temporanea e la sukkah è la dimora fissa, il contrario del normale. Normalmente tu stai fisso nella casa e nel gazebo è temporaneo, quando vuoi, quando ti va, quando c'è bel tempo. Adesso a Sukkot è il contrario, la cosa centrale dovrebbe essere la sukkah e la casa è l'appoggio per la sukkah, no? Dice però Yardug e Shamim, qualora ci fosse la pioggia, scusate, la Baraita definisce cosa significa la sukkah e il luogo fisso e la casa. Dice, se hai delle belle tende, le porti nella sukkah, non nella casa. Se dei bei recipienti per mangiare, li porti nella sukkah. Mangi nella sukkah, bevi nella sukkah, studi nella sukkah. Metayel, letteralmente significa passeggiare, però nel senso della sukkah significa passare il tempo. Devi trascorrere il tempo, trascorri nella sukkah e così via. Allora, Yardug e Shamim, qualora dovesse piovere, Mei Matai Mutar Lefanot, da che momento in poi è permesso uscire dalla sukkah? Svuotare la sukkah. Allora la Mishnah dice, Mishe Tisrach Hamikpa, dal momento in cui la pioggia viene, passa attraverso lo sechach, scende sul tavolo e sul cibo e rovina il cibo, allora puoi uscire dalla sukkah. Però la Mishnah dà un esempio di un cibo specifico. Mikpa è un tipo, qualsiasi tipo di cibo che è come una polenta, è come un insieme di basin, qualche tipo di grano, basin, che è come una polenta. Allora non ci vuole molto che questa cosa si rovini a causa della pioggia. Anzi, c'è il brodo a cena, si è rovinato. Esatto, ci vuole molto poco. Allora la Mishnah sta dicendo che nel momento in cui questa il Rabbi Ovadia di Bertinura dice che ci vuole molto poco perché si rovini con l'acqua che scende dalla pioggia, e quindi è quasi subito è permesso uscire dalla sukkah. Non siamo più obbligati perché si rientra nel concetto che credo abbiamo già detto, Hamitzta'er, colui che soffre, patur mina sukkah, è esente dalla sukkah. Il soffrire ha varie definizioni. Non è più una festa, significa se è troppo freddo, troppo caldo, pioggia, questo rientra nella cosa di soffrire, e in quel caso si è esenti dalla mitzvah della sukkah. Ora, la Mishnah prosegue e dice, Mashlum Mashal, qui la Mishnah parla non sul piano alachico, che non è una cosa comune, parla più su un piano morale, e dice, Mashlum Mashal, i maestri fecero una metafora, le maha davar domè, a cosa è simile, a cosa si può rendere simile l'idea di stare nella sukkah e arriva la pioggia. Dice, le eved shebalim zog kos le rabò, sembra come quando un servo viene a versare un bicchiere d'acqua per il proprio capo, veshafach lo chiton al panav, e il capo prende la brocca e gliela butta in faccia, al servo. Così sembra quando noi stiamo facendo la mitzvah, stiamo portando, per così dire, offriamo una mitzvah da Kadosh Baruch Hu, siamo sotto la sukkah, e lui ci manda la pioggia, è come se indicasse che c'è qualche problema nelle nostre azioni, che lui non accetta in maniera tranquilla la mitzvah che gli stiamo facendo. Questo è l'esempio che la Mishnah porta per la situazione in cui ci fosse la pioggia nella sukkah. Sembra che HaKadosh Baruch Hu non accetta con buona volontà le nostre mitzvot, e quindi è come un invito alla teshuvah, diciamo così. Questo conclude il secondo capitolo, e ora iniziamo subito la prossima cosa, che è il terzo capitolo della Mishnah di Sukkah, che tratta il discorso del lulav. Come usiamo sempre quando concludiamo qualcosa, bisogna subito riniziare un'altra cosa. Abbiamo finito la Torah, riniziamo subito Bereshit. Allora andiamo alla prossima Mishnah. Quindi questo segnale della pioggia dovrebbe farci scattare qualcosa di lavoro in noi, insomma. Certo. In linea teorica, però il periodo è quello che iniziano le piogge, per cui tutto sommato... Certo, però ecco, questo è un'ottima osservazione. Dici, comunque è il periodo della pioggia, è difficile che non viene la pioggia di Sukkot, no? Ok, allora significa anche ciò che succede nel mondo e che deve comunque accadere, comunque deve servire per noi internamente come un messaggio, cioè noi dobbiamo cogliere i messaggi di quello che accade intorno a noi, anche se uno dice, ma comunque accade questo, mica accade per te, è giusto, è come l'arcobaleno. L'arcobaleno diventa un ricordo, diventa un segno del patto, ma l'arcobaleno è un effetto, è un fenomeno naturale. Perché devi dare questa spiegazione? Effettivamente questo è quanto dice il Rambam quando parla dei digiuni. Dice ci sono momenti in cui, momenti di particolare difficoltà in cui si potrebbero istituire dei digiuni per il momento, non i digiuni che sono già nel calendario, ma proprio a causa di sofferenze o problemi che accadono, siccità o cose collettive di altro tipo. Allora, dice, se dovesse accadere qualcosa di negativo e la persona, la reazione sarebbe, questo non c'entra niente con me, cosa c'entro io con se manca la pioggia in Israele o se, cioè non è mica qualcosa che dipende da me. Non è il mio problema. Non è un mio problema. Lui dice questo è un atteggiamento proprio, lui usa il termine achzar, quasi come dire sadismo. Cattivo. È cattiveria. Cioè, cattiveria. Cattiveria. Cioè una persona che si esclude da quello che accade intorno a sé è un tipo di cattiveria. Perché non si esprimerà solo in questo, tra l'altro, si esprimerà in tante cose. Allora dice, anche se accade qualcosa che in teoria non c'è nessun legame con le tue azioni, comunque lo devi prendere a cuore. Cioè lo devi prendere come segnale e trovare dentro di sé qualcosa da migliorare. Molto interessante questa cosa, che si lega al discorso della sukkah, no? Trova qualcosa dentro di te da migliorare e prega a Kadosh Baruch Hu attraverso questo miglioramento che lui migliori la situazione del mondo. Cioè è molto bella come idea perché significa tu ti devi inserire in un contesto a livello di responsabilità sociale, collettiva, e non puoi mai dire, come dice la Mishnah, alti frosh min atzibur, non separarti dal pubblico, dalla collettività. Devi ritrovarti all'interno del pubblico, non puoi divorziarti dalle altre persone, dalla comunità, dalla società e dire io ho salvato me stesso e sono a posto. anche quello che accade, che sembra essere al di fuori, deve comunque essere uno scatto per trovare dentro di sé il miglioramento. Si lega un po' con quello che stiamo studiando pure nella gratitudine, tutto sommato ritornato. Sì, assolutamente sì. Si lega molto bene. Allora iniziamo il terzo capitolo. Terzo capitolo, parliamo appunto dell'Ulav. Finora abbiamo visto la mitzvah di Sukkot, che è il nome della festa, Sukkot, e la Sukkah, che era rappresentata dalla Sukkah. Ora però nella Torah c'è scritto, Ulekachtem lachem bayom arishon, il primo giorno di Sukkot, dovrete prendere in mano le quattro specie. E la Torah fa un elenco di quali sono le quattro specie. E con questo gioirete davanti al Signore per 7 giorni. La Torah dice, peri etz adar, il frutto dell'albero Adar, e non specifica che frutto è, la tradizione vuole che è l'etrog, capote marim, le foglie delle palme, e la tradizione ci insegna che non è la foglia grande e aperta, ma è la foglia prima che si apra, quando è dura e chiusa e retta, che si chiama lulav. E abbiamo la foglia del Hadas, del mirto, Anaf Etz Avot, che anche quello non è specificato il nome della specie, ma è descritto Avot come una catena, perché come vedete le piccole foglie del mirto, una finisce e l'altra inizia, prima ancora che finisca l'altra, come una catena, come gli anelli di una catena. E Arvei Nachal, e i salici del fiume, la specie di salice che prendiamo è una specie che molto spesso si trova vicino ai corsi d'acqua, ed è una specie specifica, e queste quattro specie formano insieme un'unica mitzvah, ok? E si chiama mitzvah lulav, la mitzvah del lulav, e quindi la Mishnah del trattato di lulav approfondirà anche le specificazioni tecniche, tra virgolette, del permesso e vietato nel contesto, o dell'adatto e non adatto, meglio, quindi kasher e pasul, nel contesto delle quattro specie. Allora, la prima, iniziamo dall'ulav. L'ulav è quello più imponente, quello più grande, quindi anche la berachà è riferito in maniera specifica all'ulav, e anche la mitzvah, come dicevamo, si chiama mitzvat lulav. Allora la Mishnah dice, lulav hagazul, un lulav che è rubato, non è di propria proprietà. Uno ruba lulav e fa la mitzvah? Già è strano. Comunque non. Sì, però anche se fosse un lulav senza proprietario, cioè è stato rubato e ormai i proprietari già hanno rinunciato a trovarlo, quindi hanno rinunciato al possesso, è come se fosse Hefker, non è di nessuno, e chi l'ha preso non dai proprietari, l'ha preso dal nulla, diciamo così, dalle proprietà di nessuno, è Pasul, non è valida la mitzvah, perché mitzvah haba aba avera, è considerata una mitzvah che viene fatta attraverso una avera. La prima cosa, gazul, abbiamo detto rubato, vehayavesh, è un lulav secco, totalmente secco, ok? In questi due casi, passul, la mitzvah è un lulav che è invalido per la mitzvah. Altro caso, shel asherah. Shel asherah significa un lulav di un albero che è definito asherah. L'albero che è definito asherah non è una specie di albero, è un albero che è stato oggetto di culto pagano, di culto idolatra, che usavano, e alcune culture ancora oggi usano, che adorano o usano un albero nell'adorazione di un culto, quello diventa per noi vietato e sarebbe da bruciare per la Torah quell'albero. Il lulav che deriverebbe da un albero così sarebbe pasul. Prima di arrivare alla dicitura pasul, la Mishnah aggiunge un'altra casistica, veshel ir hanidachat, una sukkah di una città in cui la Iranidachat è un caso molto particolare, di cui la Gemara dice che non è mai accaduto. Iranidachat significa una città dove tutti gli abitanti sono stati spinti a fare idolatria, la maggioranza della popolazione della città. E in quel caso la Torah dice che tutta la città deve essere distrutta. e tutto ciò che c'è nella città deve essere distrutto e non è di proprietà di nessuno. La mezzuzza va distrutta in quel caso, le mezzuzza che si e allora? Ah. No, appunto, dice però non si possono distruggere le mezzuzza perché certo. È una cosa... Molto bene. Allora la città delle Iranidachat, il Lulav, o dell'albero Asherah, o della città della Iranidachat, di questo tipo di città, entrambi i casi dovrebbero essere bruciati o distrutti questi Lulavim, allora non ci si può fare la mitzvah, perché è considerata come una cosa che sarà distrutta, non è considerata una vera... Una entità reale, ok? Poi entriamo in casi più comuni del problema con l'ulav. La prima cosa, niktam rosho. Qui abbiamo su pagina 4 l'illustrazione, quella sulla sinistra, dove il capo, rosho, la cima dell'ulav è tolta, è venuta giù, è stata tagliata o in qualche maniera tolta. Non è considerato bello più il lulav e quindi non va bene. E come la kashod, non è kasher. Non è kasher, bravo. Pasul significa non è kasher. Nifrezu alav, nel caso in cui si sono aperte le sue foglie, cioè le foglie dell'ulav già iniziano ad aprirsi e non sono chiusi come siamo abituati a vedere il lulav, come quando vediamo le foglie di una palma già più sviluppate. Allora, ci sono in realtà qui diverse opinioni. Secondo alcuni sono proprio tolte le foglie, secondo altri sono molto aperte, come la foglia di palma appunto che siamo più abituati a vedere già più sviluppata. Allora, in questi casi, pasul, il lulav non è valido per la mitzvah. Se invece nifredu alav, se invece si sono separate le foglie, ma non aperte come dicevamo prima, quindi c'è un po' di apertura, ma non così estrema come appunto nel caso precedente, allora kasher, allora è ancora kasher. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, no, non è kasher, a meno che yagdenu milemala, se sono separati già un po', li deve legare all'ulav e allora potrà essere usato. La halakha non segue Rabbi Yehuda, significa il caso in cui la Mishnah dice che è kasher anche senza legare. Poi un altro caso, la Mishnah dice... Zinei Hara Barzel, li lulavim, zinei significa in questo caso lulavim, lulavim di un luogo specifico che la Mishnah chiama Hara Barzel, il monte del ferro, dell'acciaio, che sono, secondo i commentatori, dei lulavim che hanno delle foglie molto corte e che non necessariamente coprono tutto il ramo dell'ulav interno. Allora la Mishnah dice, kshedot, vanno bene per la mitzvah, però la Gemara spiega che la foglia sottostante deve arrivare almeno al punto in cui inizia la foglia sovrastante, anche se non la copre, come normalmente noi siamo abituati, che le foglie sono molto lunghe e coprono di molto una l'altra. Questi lulavin qui non hanno le foglie così lunghe e la Gemara specifica che che vanno sì bene, come la Mishnah dice, che sherot, sono sì adatte, è solo se giunge almeno a l'inizio della prossima foglia, anche se non la copre. Ma se non giunge lì e c'è proprio il ramo nudo, diciamo, allora non sono adatte per la mitzvah. Ok? E sarebbe la prima figura a sinistra, quella delle tre, quella a destra. Qui vediamo un esempio. Ora, per ciò che riguarda l'altezza minima dell'ulav, la dimensione minima, la Mishnah conclude dicendo l'ulav sheyesh bo shlosha tvachim, un lulav che è lungo come minimo tre tefachim, tre pugni, che abbiamo detto corrisponde a più o meno 30 centimetri. Una trentina di centimetri, anche un po' di meno in realtà, che deile na neabo, e la Gemara dice bisogna dire ubich deile na neabo, e ha anche spazio sopra per scuotere, cosa significa? Significa che noi abbiamo tre specie che sono legate insieme. Il lulav al centro e intorno Hadas e Arava, almeno tre rami di mirto e abbiamo due rami di salice e sono legati insieme. Abbiamo la mitzvah di scuotere il lulav. Il lulav deve essere, appunto si fanno questi movimenti con lulav. Allora, se il lulav è totalmente coperto dalla legatura, essendo legato con gli altri, con le altre specie, non si vede lo scuotamento del lulav. Deve esserci un po' di spazio sopra dove il lulav è solo e si vede come il lulav scuote sopra. Allora il minimo è 3 tefachim più un po' di spazio per il movimento del lulav. Allora kasher, allora è kasher. I nostri lulavim normalmente sono molto al di là di questa lunghezza. Le fascette non più nella prima parte, perché proprio se no bloccherebbero sopra. Allora, le fascette si mettono in realtà anche verso la metà o anche un po' più su, ma non troppo in alto, non troppo in alto perché lo tiene, non lo fa scuotere. Quindi in realtà, quando dice tre tefachim più spazio per scuotere, la Gemara dice, è come se dicesse, o i commentatori, quattro tefachim alla fine deve essere. Io ho una domanda. Sì? Domanda. Prego, domanda. Quale significato ha questi tre, come si chiama? Specie. Queste specie. Quattro specie. Quattro specie. A livello... livello mistico. Perché il lulav? Perché il mirto? Perché questo qua? C'hanno un significato ognuno di essi? Assolutamente sì. È questo che volevo dire. Ma ne abbiamo parlato a Sukkot, dove eri? No. Non c'eri? Tra 10 anni te lo dice. No. Ci sono cosa rappresenta il lulav? Ok, qui stiamo studiando la Mishnah che non affronta questa questione, però in generale, ascolta, Sukkot è il periodo della pioggia inizia. Sì, capisco. E anche molte delle nostre tefilot a Sukkot, a Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret, sono legate alla richiesta della pioggia. Questi quattro frutti sono tutti frutti che hanno bisogno di molta acqua e sono legate all'acqua in molte maniere, o ritengono l'acqua bene, come la palma. E prendendo queste quattro specie, rientra in tutte quelle tefilot che noi facciamo che sono legate all'acqua e alla pioggia. Poi c'è, questo è solo un senso generale, ci sono molti approfondimenti da fare. Appunto il salice che vive sul salice giugno. È un esempio. Questo è solo, appunto, ripeto, in generale, perché gli approfondimenti sono moltissimi e le allusioni sono moltissime, ma non è il contesto qui. Okay. Allora, Mishnah Bet, seconda Mishnah, ora parleremo del mirto, Hadas. Di nuovo, Hadas, Agazul, Vayavesh, Pasul. Come abbiamo detto del Lulav, anche la Das, se fosse non di proprietà, quindi gasul, rubato, o Yavesh, secco totalmente, Pasul, non è valido. Di nuovo, se la Sherav e se l'Irani Dachat, come abbiamo detto prima, quelli che dovranno essere bruciati perché o sono di un albero adorato o della città Anidachat, è invalido questo Hadas. Niktam Rosho, ugualmente come abbiamo detto riguardo il Lulav, se viene tolta la parte superiore, la cima del ramo, quindi se volessimo accorciare un ramo di Hadas o di Arava o anche il Lulav stesso, se è troppo lungo, si può accorciare, ma sempre da sotto. Sopra lo rende invalido. Rosho, la cima, togliendola, diventa invalido. Si può sempre accorciare se è lungo, ma da sotto. Niktam Rosho, se viene tolta la cima, o nifrezu alav, oppure sono state tolte o sono cadute le foglie. O shehayu anavav merubot me alav. Se voi avete visto una pianta di mirto, e si vedono, perché qui in zone mediterranee si vedono le piante di mirto hanno anche dei frutti, che qui lui chiama la Mishnah anavav, e le sue uva, la sua acini. Uva. Ma in italiano si chiamano acini. Se gli acini sono maggiori alle foglie, cioè così coperto di acini che sembra siano più acini che foglie, non si vedono le foglie quasi. Allora, fasul, non va bene, bisogna togliere gli acini. Come dice la Mishnah, ve'im mi atan, se le riduci il numero degli acini, cioè è permesso togliere gli acini, non è che diventa invalido se togli gli acini. Kasher è kasher. Però la Mishnah dice, ve'en mematin bi yom tov, Ma questo fatto di togliere, di far ridurre il numero di acini, non si può fare di Moed. Bisogna farlo prima di Moed. Perché è come se aggiustassimo, rendessimo valido un oggetto durante Moed che sarebbe vietato. Che poi sarebbe difficile, perché si presume che uno se lo prepari prima, nulla, prima della festa. Si presumono tante cose, poi nei fatti possono anche succedere tante cose. Magari l'esempio molto semplice, c'è gente che mi dice: io acquisto un lulav, e poi lo prende durante la festa. Lo vengo durante il Moed a prenderlo, il primo giorno di Moed vengo al tempio e lo prendo, ok? E se tu apri la busta e vedi che sono più acini, che cosa fai? Se già Moed non puoi fare niente, devi trovare un altro Adas. Arava, terza Mishnah, per ciò che riguarda la Arava, cioè il salice, Arava gzulavi vesha psula, di nuovo, rubata o secca è invalida. Shel Asherah ve shel Iran nidachat psula, di nuovo, dell'albero di Asherah o della città nidachat è invalida. Niktam rosha, di nuovo, la cima è tolta, o nifretzu aleha, o le foglie sono tolte. Ve atzaf tzafa è una specie di salice, che è simile al salice, ma come vedete nella figura le foglie sono più arrotondate e non così allungate come il salice tradizionale che noi usiamo, e anche il bordo delle foglie è addentata, cioè tutta a dentini, non è liscio, è seghettata. Allora questa specie di salice psula non è valida per la mitzvah. Poi la Mishnah dice che musha, un salice, una foglia, un ramo di arava che è non è secca totalmente, ma è, come dire, sgualcita. Sì, sgualcita si dice. Vesce nashru mikzata leha, o che una parte delle foglie sono cadute, ma non tutte. Inoltre vesce il baal, cioè abbiamo detto che il salice cresce, la Torah dice arvei nachal, i salici dei fiumi. E se esce il Baal, se si trova in un campo, non vive dal fiume, vive dall'irrigazione. In tutti questi tre casi, e cioè che non è secca totalmente ma ci sta arrivando, e che non sono cadute tutte le foglie ma ci sta arrivando, e che non è direttamente irrigata da un fiume, da un corso d'acqua naturale, bensì viene irrigata in maniera artificiale. In tutti questi casi kshera, è kasher, sì. Quando la Torah dice del fiume intende dire quella specie, ma non che deve essere necessariamente sul fiume. Anche se a Roma noi prendiamo dal Tevere, però è lì che li abbiamo trovati. Ma se li trovassimo da un'altra parte andrebbero bene uguale, se fossero quella specie. Ok, allora concludiamo qui. La prossima Mishnah vedremo i numeri, la quantità di ognuna delle specie necessario per rientrare nella mitzvah, e poi affronteremo le regole del etrog, che sono ancora di più rispetto alle regole delle altre specie che abbiamo visto adesso.